zona caffè, 1, 2, 3, prova. Ma secondo me è aumentato di un Santiago, perché di 7 è su 6, 8. Di poco. La sto cercando di tararla, perché è un pochettino di stazionaria, ci sono. Sono così che di tararla, porca puttana. Ne finisci la canna. Diciamo che fai compiti positivi a quasi 8, dai. A volte 6-7, a volte 6-8. E cappa, dai. Adesso provo a tirare ancora un po' il coso. Devo cercare di tararla. Casino, Va bene. Che ne sto controllando le lampadine della macchina, quindi sono fuori. Sono pronto a prendermi un pezzo di stagno che devo saldare una lampadina. Va bene, ciao, a più tardi. Che ci devo più tardi, là. Io sento di tararla sul cazzo d'antenna. D'accordo, ciao ciao, buon lavoro. Prima stava strappando, infatti l'ho regolata al mic gain. Beh c'è un po' di alternato o no vento, non so cosa sia. È il solito adesso, il solito, K. Ok. No, ma adesso sembra che va bene, dai. Ma che io ho abbassato un po' perché se lo strappavo, perché mi sono anche ascoltando, capisci? Mi abbasso ancora, così va meglio, ecco, così va meglio. Così va ancora meglio, dai. A questa posizione almeno lo strappa. No, così non strappa. Così è una cannonata lo stesso. Ok. No, ma volevo dirti che ho oliato il carrier e adesso i vatti salgono, e adesso salgono la voglia. Sì, che quel difetto non te lo stava più facendo. Sembra di no, almeno in questo momento sta sparando 100. No, già va bene come radio. Vediamo Antonio che stava facendo il prepotente, io penso che questa volta li punti arrivo un po' meglio, Senti, ero 7 e mezzo, ma arrivi tu. Ah sì, buffonendi o cosa? 7 e mezzo, ti devo bene, ma lui... Ma di tutto. E tu come sono? Qui sei 9,5. Tanto sei basso come antenna, capito? Già l'antenna è quella che è, in più la buona mascia, addio. State scherzando, state. Ma cosa cazzo si dice? Cazzo va giù, cazzo 5 metri antenna. Sì, ma che attraverso 5 metri di antenna? E cazzo l'ho cambiata. Ho capito, tu, se tu metti un'antenna a 1,50 m, 1,80 m, 2 metri, anche se l'antenna è 5 metri, cosa pensi di fare? E il suo è. Ma il palo è corto, no? Quanto è? 6 metri? 4 metri? 5 metri? No, un po' di meno sarà 2 metri di palo sarà. E allora, la sapete Antonio, 2 metri di palo, e passa anche quella zona lì, non lo so, devi sollevare Antonio, devi sollevare, non abbiate paura. Adesso mi rimane, adesso mi compro il capo migliore. Cioè, un palo un pochettino più alto. Via. Ah, ne hai tu? No, lunghi no. Vai la brinco, ma ti prendi quello telescopico, capito? Ti prendi quello telescopico, quello da 6 metri, bello, noi siamo a 4 metri, no? Scappa. Adesso io sento, anche Giulio lo sento molto più forte, lo sento. A te molto più forte, sento tutti più forte, sento. A voglia, cavolo, qua sei 9,5, oscillante a 9,10, non è che hai un segnalone, e che sta già lì, vai giù. Ok, Lu, 9,17 con quel di polo ti sto ricevendo, tu stai andando fortissimo veramente. Sì, io sono sempre con quello, devo salire su, ma domani stavo facendo quello di Claudio prima, domani ci salgo, monto su quell'altro là, lottaro, capito, giù, cappa, vediamo un po' se vuole entrare qualcun altro, avanti, su canale 10. Intanto abbasso io un po', dai, non è il caso. Ecco qua. Ho abbassato molto te. Mettiamo 10 watt, così va bene, dai, 10 watt. Hola. Avanti, hola. Telefono. Adesso com'è lì? È a telefono, Luca. Adesso sei 8 e mezzo, quasi 9, dai. Capa. Ma la musica è ciambata, Sì, ma hai guastato la radio, però. Adesso è cupa la radio. Ma lascia perdere che è un'altra radio questa. Questa non è quella che utilizzavo. Non la posso attaccare. Perché sennò si sporca la radio, capito? È un'altra radio questa. Questo è un altro tipo di radio che ho utilizzato. Vabbè, ma questa radio è nasina, dai. Non è bella, non è chiara. Io ti sento nasino. Che capa, no, per fare un paio di passaggi, la devo cambiare. Hai detto, hai proprio un altro microfono, vedi, se funziona ancora, Ok, Hola. Hola, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Questa com'è? Una zina, ho cambiato il microfono. Questo è un po' migliore, io mi sento meglio qua. Però è sempre un microfono normale, dunque non è un granché. Vabbè, dai, comunque il segnale adesso è quasi 9. Cazzo, non devo avvisare, c'è goccia. Allora già funziona. 1, 2, 3, prova. Vabbè, dai, l'ha visto dopo, vaffanculo. Vabbè, tutto quello che vuoi, ma se non puoi l'antenna, la venuta la va, hai capito? Sempre poco, se non metti antenna, non c'è niente da fare. Io l'antenna ce l'ho, cazzo, non capisco perché non sta uscendo come deve uscire. Perché non è un'antenna performante, ecco cosa è. Se era una boomerang, buona l'antenna a velo, o la circostavi a velo, buoni. E vedrai come esci. Se la circostavi non ce l'ho più, Giulio. Cioè, la boomerang non ce l'ho più. E compra un'antenna come si deve. Capita, volevo di clicca. E tu puoi pretendere, ma non puoi pretendere più di tanto con quell'antenna. Fatela fare una Luca, amiche, che te la fa benissimo e funziona, che è una meraviglia. Abba, ma io quella lì l'ho tolta giù. L'ho tolta, tolta, so cosa vuol dire tolta. La giugavata proprio, la boomera. Adesso ho messo una da 5 metri, ne ho messo. Cavolo. Ma cosa hai messo? Una mezz'onda hai messo? Oh, ho messo una Ringo, ho messo. L'antenna peggiore di sicuro sulla terra hai messo, una Ringo. Ora una cosa devi mettere, o metti la 827, oppure metti la Game Master, oppure ti cerchi una manto, basta riesci a trovarla. Sarà difficile, ma già in giro qualche negozio ce l'hanno ancora. Vabbè, mi la rigarata, cosa vota? Ti la rampo. Allora accontentati, non pretendere di più, accontentati. È inutile che stai lì, sempre quello, il segnale è quello. Puoi aumentare di un segno, un DP, cioè un punto S, e poi alla fine cosa hai compilato? Nulla. Se vuoi arrivare 9.10 qua, 9.15, deve buia antenna, va a andare bene, se no non prendi la fa. Capa, va ragione, Burudu. Da voi va. Già va bene anche questa, già sono contento però, dai. Un po' meglio della boomerang già è. Allora basta, contentati e basta, non se ne parla più. Tutto lì, è inutile. Io le prove si fanno tranquillamente, però a un certo punto se non migliori le prove fai? Uno fa le prove anche perché deve migliorare, ma tu non stai migliorando proprio per niente. Se andendo da un'antenna questa maria all'altra biglio e così via. Adesso la Ringo sì, un po' meglio, già va, sicuramente la Ringo va un po' meglio. Però non è questa differenza, siamo lì, siamo. Vabbè, la prossima volta mi piglierà su Barlemme, poi voglio vedere. Ma come ti vuoi tu, vedi tu cosa fare. Io te l'ho detto già diverse volte. Se non c'è antenna non c'è niente. Ci vuole pasta asciutta per arrivare forte. Lo so. Ma su Barlemme già anda ya. Cazzo, è una manto vai, poche parole. Quella schicchia. Sono a 5 ottavi e tutta un'altra cosa. C'è radiali che sono enormi. Dovrei metterla più su. Vabbè, sarà discreta anche quella, ma non la paragonare mai alla Mantova. Non fare mai quell'errore di paragonare le altre antenne alla Mantova, perché la Mantova era il numero uno in assoluto, e poi è insieme alla Game Master, dunque non le fare di quei paragoni. Sono sempre antenne, sempre di secondo piano, non mai di primo ordine. Sì, sa pompa, fidati, quella pompa veramente. Quella chiccheggia, non lo so se la durata è come la Mantova, ma quella pompa però, infatti non costa nemmanco. Sì, vabbè, ce lo dici tu, accontentati cosa vuoi che ti dica, io ti sto dicendo la mia, io per me ho queste idee, poi se tu sei convinto che quella vada bene quanto la Mantova, per me stai sbagliando, poi però se poi uno si accontenta, ma ti sento, sia ben chiaro, ti sento, perché ti sento, ma se vuoi essere a livelli massimi devi sempre utilizzare quel tipo di antenna. o te ne fai costruire una da Lucca, o ti compri una Mantova oppure una dei Master, vedi tu, ma io direi una bella antenna fatta da Lucca, spendi la metà dei soldi e allo stesso tempo hai un'antenna veramente performante, tutto lì, e senza radiali, dunque poco ingombrante. Sì, adesso appena che già me la voto, appena che... Appunto, e allora pazienta, fin quando non puoi, poi che puoi, te la fai fare e basta, e così vedrai che tutti ti apprezzeranno proprio veramente alla grande, come segnale, non come uomo già lo sai che ti apprezziamo tutti, ma come segnale non ci sono dubbi, se tu metti in antenna il segnale arriva, e come ti arriva? Se cappa. Per adesso mi devo accontentare di questa che ho, di quello che ho. Poi vediamo un po' di comprarmela. Cioè, me l'hanno irrigarata, purtroppo da quando ho la casa soldi ce ne sono pochi, capito? E mi devo accontentare. È un regalo che mi hanno fatto, è cosa voto. A te la rampo. Non ti sono disegnissimo, mi sarebbe un po', ti sto dicendo, accontentati per il momento, fin quando non puoi migliorare, è tutto lì. Io non è che voglio vederti per forza 9.15, 9.20, quando non mi interessa, per me puoi arrivare anche a Santiago 7, 5, 6, Ricciuglie e sentirti, interessante che ti sento, ma se tu vuoi proprio veramente migliorare il segnale, devi mettere un'antenna performante come si deve. Poi il fatto che anche la Ringo non funzioni, sì certo che funziona, funziona sì, perché no, però non è a quei livelli che deve essere, insomma, ecco. Luca è ritornato, Sei al telefono, Luca, sei ancora al telefono. Ui, stracco, gioco, me ne ha giovini danzora, a me. Mi ha fatto girare male a tararla, però ci sono riuscito. Ok. Io sto uscendo con meno di 10 watt, mi sto uscendo. Guardati il segnale, meno di 10 watt. E sono lontano da te, no? Io sono il tibio. Posso, ma non ho capito perché. Ho sempre avuto un debole su questa zona qua. Cioè, in questo gatto di cosa. Cioè, prego, lo profeta esce più forte di me. Cioè, dall'altra parte, perché tutto aperto. Ho sempre avuto qualche problemino. Evidentemente tu hai qualche ostacolo, che ne so. Il profeta esce sì molto più forte di te, non poco, ma arriva a 9.10, mi arriva qua tranquillamente, e con un antennino boomerang, quella è veramente una boomerang, però è tutto aperto, anche tu fai modo di evitare gli ostacoli, tirando su ad esempio il palo, mettendo l'antenna migliore, trovando un angolo migliore, insomma tante cose sono da verificare. La boomerang, cioè, la boomerang funzionava che una meraviglia, mi Giulio, cavolo, andava forte, però io ho sempre avuto meno apertura di lui, sempre avuto quel problema, se ho stato libero come lui, guai. Cosa ti vuoi fare? D'altronde così, ognuno ha la sua posizione, poi c'è quello più fortunato che è più aperto e c'è quello che è più chiuso, dunque bisogna accontentarsi e basta, non c'è niente da fare in quel caso lì. Però trovare il modo migliore, installare un'antenna più performante, un cavo che abbia meno perdite, o allontanandoli da ogni ostacolo, tirandola su, eccetera, insomma, diciamo qualche miglioramento si può ottenere, tutto sta a fare l'impianto a dovere, come si deve. Penso che scendi con più poco di 10 watt, guardati lo Smith, meno di 10 watt, 8 watt dovrebbe essere, 7-8 watt, guarda lo Smith. Sì, più di 9.15 qua. Hai visto? Ora, se ti arrivo io, per quale motivo non devi arrivare tu anche da me, così? Ti rendi conto? Perché i due segnali si devono equivalere, no? L'uno con l'altro. Ma se non vai antenna, non vai antenna, e ti dirò di più, 9.15 è se tu metti l'antenna più performante vorrei dare un volo per 20, e così saresti tu a trovare la meno per 20. Se cappa, allora devo papà, devo cambiare il palo, non voglio mettere un palo più alto, voglio mettere. E prova a mettere un palo più alto, a lì come ci sono, mi pare da 6 metri, 23 euro costano, da 6 metri. E prova con quello, magari mettendo un palo così alto può darsi che eviti qualche ostacolo che è davanti. E cappa, ma secondo me perché manca il palo, pure la boomera me l'ha fatto, ho messo l'altro pezzo di palo più alto, cazzo, ho risolto tutti i problemi, poi andava molto forte, andava, capito? Ho avuto quello, cioè, ma basta un pochettino, ma questo è 5 metri, ho detto, non avrebbe avuto avere problemi. Invece qualche piccolo staccolino ce l'ha ancora, ma magari metto il palo più alto e cambia tutto, perché quella alla boomera me l'aveva fatto, E cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Io non conosco dove sei, non so la posizione dove sei, dunque, se non ti avrei potuto anche dire, prova a fare così e magari vediamo se si migliora. Ma tu lo devi risolvere questo problema, che sei tu lì e vedi la posizione, vedi tutto, eccetera, eccetera. Per cui solo tu puoi fare qualcosa, nessun altro, perché ci abiti tu lì e vedi un po' la situazione come funziona. E cappa. Devo cercare di risolverlo, devo cercare. Secondo me un pezzo di palo in più e ho risolto tutti i problemi. E prova, cosa vuoi che ti dica? Prova tu, provalo. Vedi un po' tu, se no accontentati e non se ne parla più. Tanto sentire ti sentiamo ugualmente, problemi non ce ne sono, perciò non è obbligatorio, no, arrivare per forza al 920, assolutamente no. Si può arrivare anche basso di segnale, però capire bene la radio. E tu già lì ci sei, perché la radio è buona. E cappa, adesso prima questa qua mi fischiava, adesso con questa antenna non mi fischia più, lo sai. Se cosa vuoi che ti dica? Visto, è bene che c'hai delle cose che non hai fatto in maniera perfetta, perché se no tutti questi problemi non ce li dovresti avere. Comunque, vedi tu, Antonio, non so cosa dici. Vediamo se rientra Luca. Luca? Ci sono io, buonasera. Buonasera a lei. Ecco qua, scusate. Allora, ciao Giulio, ciao Antonio, hai migliorato tantissimo, da 7 a 9. Ok, ciao Tino. Vabbè, dai. Penso di aver risolto un attimino il problema che avevo. Però guarda Tino, lo smitter, prova a guardare lo smitter, così dovrebbe essere ad hoc. Abbasso di nuovo, abbasso e metto, ecco qua, vai io e Tino. Sì, si è arrivato 9.30 Giulio, ma anche Antonio ha migliorato, aveva un segnale di 7, Antonio adesso arriva a 9, prova tu. 2.3, 1.2.3, prova. Sì, 9.5, con un rumore di alternata però. Sì, ci ugazza l'alimentatore, appena. No, va bene. Sentite il segnale a tu, sentite il segnale mio, come? E così arrivatino qua da me, mia, a quei livelli siamo. Visto, se tu vuoi arrivare forte, metti un'antenna come si deve, e vedrai che avrai anche tu la soddisfazione di arrivare con quei segnali lì. Ok, a tu. Dai. Ma però adesso già ho migliorato un pochettino, dai. Meglio di prima, a voglia. Sì, va bene, dai, va conto, avanti chi. Va bene, dai. No, sono entrato giusto per Giulio, per darvi conferma dei segnali, che sto cercando una cosa su internet e sono un po' così, sono un po' demoralizzato anche, quindi non riesco a trovarlo e mi serve come il pane. Beh, devo stare un pochino attento, nel caso riprendo più tardi, ok? D'accordo, sì, a dopo allora, dai. Va benissimo. Avanti, Antonio, con 5 watt sto scendo adesso, mi avanti Antonio. A voglia che ti sento. Ok, dai. Lasciamo bianco, dai. Vediamo se entra qualcuno, perché sennò facciamo sempre ping pong e diciamo sempre le stesse cose, stiamo sempre ripetendo le stesse cose. Luca, hai finito col telefono? Gente mala. Ciao Marco, buona serata, avanti. Buonasera Marco. Ciao a tutti, ciao Giulio, ciao Antonio Ciortino. E Giulio aveva risolto per quel problema lì, adesso riesce a vedere i watt effettivi, sì? Sembra di sì, mi guarda, proprio guarda il meter, adesso sto uscendo con 5 watt, adesso aumento, adesso, ecco, adesso va bene così, guarda, ok, vai, ritorno indietro. Sì, aumenta parecchio, Naturalmente io ho cambiato apparato e questo mi si è bruciato anche la lampadina dello Smithers per la seconda volta, quindi da cambiare di nuovo, che palle. Vediamo, ecco, adesso sto uscendo di nuovo 5 watt, in questo momento ho rimesso 5 watt, ce n'è in abbondanza. Rubato. Sono arrivato, quando ho aumentato, quanto sono arrivato Marco? Sì, ho aumentato, passi da 9, per esempio di 5 watt a 9 più qualcosa. Qui ripeto, si è fulminata la lampadina, è una rogna, quindi vedo abbastanza male. E bisogna smontare tutto lo smitter per cambiare quella lampadina misera. A questo punto è meglio mettere il LED con la resistenza, LED bianco però, non blu non acchicca qua. Sembra a fondo scala sono, Marco. Sì, Anto, ma queste prove in vicinanza non valgono, dai. Eia, comunque per la cronaca, Superstar 3009, quello con display rosso ed MB più 5, K. Va bene, Marco, se controlla la tensione che va a quella lampadina, se è da 12 volt e devi mettere il LED, allora ci devi aggiungere una resistenza da 475 ohm. 480, dai, siamo lì, ok? Se no te lo brucia, qual è il valore giusto per alimentare il LED? Eia, peccato perché l'avevo già cambiata anni fa e ogni tanto andava e veniva la luce, raramente si spegneva. Ho una saldatura fredda oppure la lampadina, non durano niente queste lampadinette, le avevo prese la Fusaro. Ne avevo prese più di una, le avevo messe da parte, però tu te ne ricordi dove le ho messe? Io non me ne ricordo. E quindi siamo punto a capo. Devo reperire lampadine, non so se ne abbia ancora. Se no, ripeto, LED bianco è resistenza di un certo valore. Capo, vai in tu. Perché sei saturo? Perché siamo troppo vicini. Ma sei liscio adesso? No. Vedi, sei peloso e per quello è saturo. Lo so, ce l'ha quello lampadine, ce l'ha Fusaro, ma se hai quel problema spesso allora abbassa l'alimentazione un pochino, anziché avere, se ce l'hai variabile l'alimentatore, anziché dare 13,8 dai un volto in meno, 12,8 puoi dare anche 13, così le lampadine non più si fulminano così velocemente. O Marco, purtroppo, ma sono parecchi di 40 anni fa, se non di più, che hanno la stessa lampadina e durano in eterno. Quelle prodotte da poco, perché cosa parecchio recente, prodotto nel 2015, pure le lampadine di basso coso stanno facendo, capito? A risparmio anche le lampadinette degli Smithers, così devi stare a cambiare sempre. Dai, riprendete che sto facendo roba in casa. Oggi è giornata casalinga qua, lavaggio piatti e altre cose. Vabbè, io mi allontano un po', dai, mi allontano un momento, ritorno fra un po'. Riprendete voi, avanti, chi era l'altro? Luca era, Luca del Monte? Sì, Kappa, Luca del Monte, buonasera Luca! Ciao a tutti, dai, ti ascolto bene, tanto che sto facendo una ricerca su internet di una scheda, dai, la caldaia, però sono mirando il modello esatto, sono un po' impegnato. E a fondo scala sei Luca? E tu lo stesso, dai, tu, c'ho lo spirito da tre, ma c'è anche tu un bel forte. Sempre prove in vicinanza però Antonio, non fanno testo, dai. No, prima arrivavo molto di meno, cioè qualche dB lo perdevo, adesso sono a fondo scala da, da Lucca. E magari se passo nel barco va, capito? Sì, l'hai alzata ulteriormente, solo che lì Anto bisognava metterla direttamente sul tetto se possibile. Direttamente, inizia a alzarla di 2 metri alla volta e poi te l'ho detto, io avrei scelto una canna da pesca anche, quelle fatte da Lucca che sono fatte bene. Vabbè, comunque per adesso funziona, per la città ce n'è d'avanzo, dai. Oh, io devo staccare che sto facendo roba qua in casa, dai. Vi ascolto, non vedo nessuno adesso da ascoltare però. Andi viraggio, fino a giornata la gabbituria, viraggio me. Ah, l'hai messa sul tetto, proprio il punto più alto. No, non è il punto più alto, ma è sul tetto l'antenna. Sì, allora già andava, dai. Già andava. E in distanza le prove le hai fatte, tipo a Muros, a Porto Torres, eccetera. E quando entrano vedo di farle. Ehi, va bene. Qua sto... questo strumento non serve a niente, per carità. La roba ZG va bene. Dai, quel X per me. Riprendete chi c'è rimasto. Ma hai detto dopo, dai, che sto facendo questa ricerca per vedere se è uguale questa cosa. Perché dalla foto sembra uguale, però buh. Bisognerebbe avere il pezzo originale lui. Ci sarà una sigla, sicuramente un modello esatto c'è. Sì, sì, sì, vabbè, la forma è quella, perché è quella. Però la macca è bene. Devo sentire il padrone. Che cosa è? Ah, che caldaia è? Una caldaia beretta è Antu. Vabbè, non c'è l'assistenza per cercare i pezzi. Se la compra la scheda qua, cazzo, costa il doppio, 300 euro costa. Cazzo. Capito, la caldaia che è la scheda, invece su internet costa di meno, la metà. Un bel di dinacco costa. Oh Lu, ma la scheda non si può aggiustare, non c'è qualche componente che si può sostituire, anziché cambiare tutta la scheda, no? Purtroppo dice che il giorno che c'è quel temporale ha smesso di funzionare. Purtroppo sai cos'è? Che ha dei microcomponenti, vai due zeccaro. Sì, e che sia magari microprocessore, mi. Praticamente cambi tutta la scheda per prima. E questa miniaturizzazione è un macello. Poi tutto microprocessori adesso. E quindi vabbè. Così le macchine, così le lavatrici. È tutto a uso e, come dire, usa e gettami, tecnologia a basso costo e fatta per durare il meno possibile. Vabbè. Luca, bene mi senti, MB più 5 e 3009. Forte e chiaro, io MB più 4 e 3009. Sono da mamma, Sì, si vede, fondo scala si vede. Porca miseria, sta lampadina, non posso variare. Adesso mi tocca smontare mezzo apparato. Vai, non era buona. E la lampadina? La lampadina dello Smith si è fulminata. È la seconda volta che si fulmina. Adesso mi tocca smontare tutto lo smitter. E poi lampadine le avevo comprate ma non so dove le ho messe. Quelle specifiche proprio. Porca miseria, guarda. Se non lo lascio così me ne affuttuno. Intanto questo non lo uso. Questo 3009 non lo usa. Quello col display rosso, capito? Che non è troppo omologato, capito? C'ha le bande, c'ha... basta mettergli un LED con il diodo, io gli ho messo un LED, perfetto. Il mio è blu. Io lo vorrei mettere bianco, perché l'altro 3009 c'è la blu. Per differirlo vorrei farlo bianco, il LED. Vabbè, adesso si vedrà. Ok, io continuo qua a far roba. Saluto Pomponio, Antonio Bombolo, Luca e quelli d'ascolto, dai. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Ciao, ci risentiamo. Giulio, ci sei? Giulio non fai più, non fai. A manetta mi arrivate tutti, a manetta, a manetta. Sì, ha detto che si allontanava. O che l'avevano chiamato, adesso non mi ricordo. Ah, KK. Ciao, un pochettino di stazionata, già va bene, dai. Meno è ricarata a Milano, non andava bene. Che cosa tu? L'antenna grande. Che te l'hai messo? Ringo. Ma Ringo? K. Va bene, sì, a voglia. E me la regarada, cosa me la putti? Ma nuova? Sì, nuova, nuova. L'ho portata in scatola. Cosa cazzo c'è? Beh, io usi brabiglio, regarada. L'hai piazzata l'hai? Sì, sto uscendo con quella. Sto uscendo bene, a voglia. Più che bene. Sì, cappa. Vabbè. C'è anche aperto, tu sei a fondo scala, io sono a fondo scala. Sì, vabbè, ripeto, questo switch deve atterrare, vabbè, lo lascio così, non ho più gara di spontare nulla, è passata tutta la fantasia. Rimane così perché non devo, ho altre cose da fare, altro no, mi sono baracchino, finché funziona, anda, se no sarà meglio le luci. Cappa. Già ni bomba già. No, ma sono contento la verità, qualche pochettino stazionaria ce l'ha, però già va bene, cosa mi ne appunti. Guardate che funzioni, da voi. Beh, definitiva, sì. Ma mi accorgo che è più silenzioso il baracchino e pompa di più. Io l'ho tenuta un anno l'ho tenuta la Ringo dalla Lemma e poi per disperazione l'ho cambiata, proprio per disperazione, perché quando piove non te ne dico nulla. Poi si era mollato addirittura il proprio radiatore da quell'isolatore di plastica nero, si era mollato, lo stilo era tenuto dalla molla, figurati, con rischio di cadere pure giù. Va bene. Adesso finché va la tengo, finché va. Già c'ho sempre l'altra conservata. È un regalo. Pago già 50 euro. Invece ha pigliato una regalata, me la regalata in occhio, sa ma. L'ho presa, l'ho montata, a fanculo. Monta, monta. Buonasera Claudio, il giuga. Monta, monta, sta monta. Fondo scala, sì, in occhio. No, è nota, non è nota. Tutti i segnali mi sono cambiati. Ma tu sei proprio a fondo scala, cioè come arriva Luca, tutti quanti, cioè sei tutti quanti a fondo scala, sì, dico che. Isso come cambia. Già vai bene, già vai bene. Ah, ma quanto ti arrivo a te a casa tua? 9:10, sì. 9:10. Anche voi, 9:50. Cavolo. Aspetta 9:10, ciao qua. Sono sei vicino a me, no? Cazzo si tira di 9:30 che si è attaccato a Eddie, e qua devi salire. Cappa, da cosa ero 9:25 da Antonello? Pagando. Cosa? A pompone? E con i baracchini di plastica e con il gacciavite e lo smitter. Non ne gioco io, no? Ehi, vabbè, tanto. Io ti sto ricevendo 440, sei 9:10, e questo lo smettere serio e taratto, no? Non mi disgazzati. Tu mi di tutti forti, ma forte, è vero però. Io non ho detto, non l'ho mai educato, non è docco io, baracchini, È sempre taratto dall'azienda. Se tu chiedi il segnale a Marco, te lo va più alto del mio, sei attaccato a Eddo, ma qua sei più lontano, quindi 9:10 stai arrivando, prima di 9:05. E allora Puglia va bene, da Puglia, Puglia, cavolo. No, perché, cioè, non sai perché me ne accorgo che sei proprio pieno, sì, qua sei pieno di tutto, cioè, sei proprio a manetta, se no era stato diverso. Lo so, anch'io sono pieno. Ui. Ciao a tutti, comunque divertite, ora sto facendo una cosa. E capa, non tengo manco un fruscio, ok? Ok, fai, non c'è problema. Se tu immaginate che Marco mi arriva a 9, come adesso mi arriva a 9:32, quasi 33. Il segnale più alto di tutti, perché è più vicino a me e poi la mia antenna vede la sua, la tua deve essere che non la vede, capito? Sì, Budici, sì. Dai, un poco più alta, ma cazzo, se tu guardi la mia dove sono io, la guardi dalla via principale, sono quasi un infossato. È quella la maledizione, però dai, ci romattesi. Saluti a voi. No, arrivavi Santiago 7, qua 8, quindi se adesso arrivi così, penso che vada bene, no? Ciao Luca. Dai, divertitevi comunque, non ne voglio parlare, sto facendo cose. Ciao a tutti. Pacca, pacca. Bye bye. Luca, cosa bella? Che fai il telefono di polo, come arrivo? Come arrivo così polo? Cosa? Così polo io come arrivo? 9.20 sei tu. 9.20 e 9.25 è Luca. Non è possibile, boh, col di polo gioco, mi atto, boh, più facile te arrivo, boh, col di polo, mi. E vai, finita, attacco lo giocattolino. No, io non gioco, non ho giocattolini, io sono come te. Andiamo a vedere quanto stai dando tu. E adesso, che ti fate? Pure io, più, all'incirca è così. Se avete la stessa potenza, vabbè, tu sei 9.10, lui è 9.20, Luca 9.25 perché è un po' più vicino a me, e Marco è 9.30, quindi divertitevela, i segnali già sono buoni, io sto uscendo con 10 watt, 15, 20 modulati, 10 watt è importante, già va bene. No, ma devi dove io. Facciamo i bravi. Hola, hola. Ma che si attacchi non arrivi quanto è Luca. Oh, vabbè, non quanto è Luca, ma penso almeno 9.20 già arrivo. Ma io, chi è questa mosca? 9.15, si è tu, fai da bravo. Sì, un po'. Si alimentatori, boh. Vabbè, dai, Mick è entrato il più forte. Arraggiati con lui, dai, già ci sentiamo. Ciao a tutti, curati per me che sto facendo cosa, ciao. Non salutare. Giù tu mi hai entrato più forte, cazzo vuoi salutare, uno solo ce n'è forte. Razzetto, ciao Tino. È vero, l'accetto. Io dico, più forte di Razzetto, Vinne. Tu cerca uno più forte dell'accetto. Io sempre, numero uno in Sardegna, come Magna Bosco. E poi devo tu buoni mezza insalata, vai a vedere che effetto fai. Vabbè, una ringa. Non è dai sapore tu, me l'accetto qua, fine, dai, allora, poi da bravo. Sapone? Sapore di Lubongani. Il sapore dell'accetto non lo sento, lo scegli tu. A pigliarla in come ti possa amare. Ho detto che tu non sei più forte dall'accetto. Ti vorrei mettere in insalata, vedi se sei appare all'accetto. Un po' difficile. Sì, vabbè, c'è più forte l'accetto, c'è l'acido muriatico. Vabbè, non è commestibile però. Sì, che non è commestibile, usa lampende in antraienti. Vabbè, ma non è commestibile, tu provi un papo, usate due antraienti e provi un papo di gargamella nata rugosa, a Lughignama. Luca per di vella. Cazzo, caro Gattarella. Vabbè, dai, sto facendo una cosa. Riprendi, Tino, riprendi. Ciao, buonasera, ben ascoltato, salutone, buona domenica, eccetera, eccetera, ciao, contattoci. Quando bisogna fare i bruvi, bisogna farle lontano, capito? Non attaccato uno all'altro, cazzo quanto ti arrivo, 9.30, sì, da Noga ai Chivi, 9.25, da Noga ai Chivi. A voi entra uno da Muros, cazzo non lo sento. Questo non è riferito a te, mi è riferito a qualche un altro. È un casino, che quello lo sento, purtroppo ci vuole la posizione, ci vuole, Nuzia, ci vuole la posizione. Io l'altro giorno a Muros sono arrivato, Ehi, va bene, tu, l'importante è arrivare da Giudizio, poi come si arriva, pazienza. Io adesso chiedo un controllante a Gianni e gli arrivi a fondo scala, a chi si è attaccato. È lì il problema, qua stai arrivando, 9.10 liscio e 9.15 quando attacchi. Dai, io vi saluto e ci sentiamo alle prossime. Vai Gianni. Ehi, dai, buonasera a tutti. Altro prova per venire avanti, non mi sembra che avevo già il controllo. No, con chi stanno? 1, 2, 3, prova. Aspetta, scusa un attimino, che devo controllare l'RF Game perché mi sa che io l'avevo abbassato. Prova a vedere, dai, apri l'RF Game, guarda a vedere. Attaccato non vale. Attaccato non vale. Stacca a legnare, Antù. Che è stato di provi? Accidenti. dai, 9.20 qualche cosa. 9.30 non mi arriva, tu mi arrivi 9.30, Claudio. Perché io sono il numero 1 in Sardegna, come Magna Bosco. KK. No, mi ricordavo di aver chiuso le referine, ma non è così. Dai, ci sentiamo se coincide, sto facendo il grosso. Sono alle prese con una radio e sto facendo una modifica. Vai Marco, riprendi, dai, ci sentiamo, dai, già sono qua. No, che non passa nessuno, chi è che vuole modulare? A me mi è mancata la luce, neanche qua passa nessuno quando parla Claudio, eh? Sì, c'era una portantina sotto, oppure qualcuno che cercava di chiamare. Io non ho sentita, ciao a te comunque, scusa se ti ho saltato prima, sono le prese con la radio, sto facendo una modifica, cazzo, non riesco a saltare un filo, non vengo un cazzo. No vabbè, a me mi è mancata un attimino la luce, sono dovuto uscire fuori a riattaccare, non so il perché, vabbè, comunque, niente, dai, ciao, a parte che sto cercando cosa su internet e non riesco a trovarla. Sì, ti ho sentito, ho in difficoltà con le cose, ma con la caldaia. No. Però Marco la mosca ho spaccato il parabrezza della macchina, quindi sono in cerca. Parabrezza di dietro? Di davanti. Minchia cazzo, minchia. Non puoi manco uscire, quindi. E perché non cammina la macchina? Ma cosa fai? Si vede? Sì, è filato da una parte all'altra, centrale, parte dalla centrale, si sta aprendo ora. Come la rosa dei venti, ce l'è presente, così, preciso. E sta aprendo sempre di più però. È un bel casino, ma dove se ti ferma non puoi guidare. Porca puttana, vabbè. Cercalo su internet e già lo trovi, dai, ma c'è un sito, io ho trovato i fregi tra l'altro erano anche originali, i fregi della macchina, avevano un po' di tutto, non mi ricordo che cazzo il sito era, auto, ricambiauto.it, una cosa del genere, blu. No, Autorock, guarda dai, riprendete nel caso già, io riprendo dopo anch'io, sono in cerca. Ehi, dai, già sono qua, riprendi il doppio numero, dai, sentiamo dopo, sto aprendo, sto espandendo un VU, cazzo c'è un filo sottile di una resistenza, non riesco a saldarlo, tre volte ci ho tentato. Mettiti con gli occhiali. Cazzo va giù gli occhiali di gozzo, ma ti dice, te la metti che devi stare vicino a casa? Come si chiama, cazzo? Non ricordo, c'aveva la voce rauca, c'aveva gli occhiali come la bottiglia, c'ho quelli ma non vedo. Vabbè, dai, ciao, riprendete. Ah, cagamella! No, come si chiamava quello, tu ricordi di doppio rum, come si chiamava quello che abitava qua, che era sempre ubriaco? Ma è buono, non ce l'ho presente. Si afferrava sempre con Cosio, quello che abitava lì, dove c'era via Taramelli. Cocisci, come si chiamava? Non me lo ricordo, dai, vabbè. Marco, riprendi, io devo cercare di saldare sto cazzo di resistenza. Se no non mi funziona, non va in espansione questa radio, dai. Sto cercando di espandere il 780, ci sono riuscito, però non riesco a saldare questa resistenza. Ci devo mettere più impegno, dai, ci sentiamo dopo. Saldatore ad aria. Sì, c'ho tutto, l'ho comprato tutto. C'ho tutto, ma non vedo. C'è una punta sottile, che non riesco a entrarla nel forellino e girare il circuito stampato per saldarla. Vaffanculo, dai. Vediamo di metterci più impegno, già sono qua comunque, riprendete. KK, sì, vabbè. Prova e riprova, ce la fai, avanti. Bomburino, che antenna stai usando? La Ringo già. Ah, te l'hai comprata? No, me l'ho regalata. Prova con questo apparecchio qua, che ho cambiato apparecchio per come va. 1, 2, 3, prova radio. Sì, è lo stesso segnale. 9.20, 9.15, 9.20 quasi. Cappa, cioè, me l'hai rigarata, e cosa la botta? Te la rampo. L'ho piazzata, però a voi vi sento a bomba, adesso mi sta arrivando come quando era latte dolce. Vagava. Lo so, è questo apparecchio è una bomboletta, dai. Chi c'è in ruota? Che io sono entrato così, ho acceso, ho scritto Claudio qui. Luca è a te, non so se ci sia altra gente. C'era quello che hai detto. No, c'era Tino pure. Mattina è andato via, mi sa. Ciao Tino, dai, se mi senti ancora. Forse sia all'ascolto, non lo so. Ha detto che stava a cercare questo parabrezza per la macchina. Sì, Gianni, ci sono, dai. Sono qua in Corrix che sto cercando. Sono in Corrix, ciao. Ciao, e andare Tino, non hai provato ad andare alla sfascia carrozze? Magari ce n'è qualcuno uguale, anche se quelle macchine lì è un po' difficile. Oggi domenica è critica, l'ho rotto ieri, tra una cosa e l'altra, ho temporeggiato e niente. Stasera ho preso la macchina e ho visto che è molto più grande, quindi dovrò sostituirlo perché Carglass mi sa che non è giusta così grande, è un taglio da 40 cm adesso. Perché si ingrandiscono, te l'ho detto, si ingrandiscono subito, basta che tu prendi un fosso e si allarga, si allarga, si rapprende tutto il vetro. Sì, non so, ora filmato, sì, tanto non credo che si rompa, il problema è che se mi fermano, ma devo cercarlo. Prova se su internet lo trovi qua a prezzo abbordabile, ma costa non vedi di nagli si costa. No, 140 euro costa nuovo, infatti sono così di pochi per ordinarlo. Ah, nuovo 140 euro, ma originale? Sì, scusa, sono in verticale. Capo, avanti Luca, ci sei? Sì, ho già, però alla fin fine ci ho visto sempre i paraurti. È un'azienda solo che li costruisce, cioè non li costruiscono altri, alla fine è sempre compare in divisi. No, che già ci sono, per dire, della macchina ci sono i fari normali, i fari originali, i fari che costano di meno e non sono, sono di un'altra casa, sono diciamo dei duplicati, diciamo, li fanno uguali, a volte i pezzi così che non sono originali, bisogna fare qualche modifica per farli entrare a chi non entra, basta dire a Roberto Quadrato e te lo dice subito. No, vabbè, ma sui parabrezza è diverso, sui parabrezza o su queste cose qua, su tutti quanti, ghici, è una fabbrica solo che li fa, non ce ne sono altre in Italia, capito? Cioè, nell'Interland non ce ne sono altre, c'è solamente una fabbrica. Comunque l'hanno rotto a uno tanto tempo fa vicino a casa, e mi ha detto che costava 3.000 euro il parabrezza suo della Crova. Cazzo! Ha detto che male ho fatto, non ho fatto male a nessuno, me l'ha rotto il parabrezza. Cazzo! Dice che adesso devo spendere 3.000 euro per metterla a posto. A me infatti mi è sembrato un bel caro. A Tino mi ha detto che costa così. Non gli vale la pena di ammattarsi a girare e fare. Un video e basta, adesso devi fare. Io per dire, l'altro giorno ho cambiato la cassetta del coso. Lo sai che l'ho trovata ma non originale. E vabbè, ma ci andava bene. Sì, stessi buchi, stessa entrata ci aveva e tutto quanto. Sì, ci andava bene, però non era l'originale, è diversa, c'è il pulsante invece che esterno, come ce l'aveva la mia, ce l'ha a livello del tappo. Sì, cappa. Ah, se va bene va bene, dai. Infine, cioè, la lati un pochettino e fa lo stesso, e costa chissà me. Ma sai quanto ho pagato lavori tutto? 150 euro. Per meglio dire mi ha fatto lo sconto di 10 euro perché gliel'ho chiesto se mi faceva qualcosa in meno, ma te dammi 10 euro in meno, va. Un bel di napi buone. Pipone, un bel di napi buone fa. Fa fare queste cose. Che il fatto che la mia non si trovava più perché è uscita fuori produzione, anzi mi ha detto l'idraulico che quando l'hanno piazzata nelle nostre case era già fuori produzione. Infatti la cooperativa le ha comprate a blocco, diciamo così, per venirvi di meno, e dopo non le hanno più fatte, capito? Quindi i tappi si trovano tutti pesi, interi, si trova il pulsante, tutto quanto, però la cassetta non la fanno più, non la fanno più. Se la trovava, ha detto che la trovava di qualche bagno dove l'aveva tolta e magari ce l'aveva seconda mano, magari ha detto di quelle nuove, perché a volte in certi appartamenti non le vogliono, così le toglie nuove e li mette quella che vogliono loro, capito? E se le conserva quelle lì, ma non, ce n'aveva una uguale, solo che ci aveva i buchi diversi, lo scarico ce l'aveva in un'altra parte, da dietro. Vabbè, l'avete dovuta adattare. No, no, era proprio questa qua, questa che abbiamo messo non è adattata, si va proprio dentro gli incastri sui. Cioè i perni, entravano i perni tranquillamente, lo scarico ce l'aveva dove doveva averlo. E meno male, da qualcosa già si trova sempre. E solo che vivono in ridinaggia, è sempre la solita storia, ci vogliono i soldi. Ma non sai cosa mi ha detto? Che sono stato, ma non fortunato, intimato, perché dice questa qui era una cassetta che ci avevo conservata, nuova, ancora non, da un bel tempo, ce l'avevo in magazzino, capito? Era tutta in cerofanata, tutta col coso attaccato, eccetera, eccetera. La pulita fatta, tattugata, e la piazzata, già va bene, il suo lavoro lo fa. Altrimenti, dai, l'ho trovato a 150 euro, diciamo, più 35 di spedizione. Sì. Gira che ti rigira, non ti curvere, manca ammattanatevi, lo rilegge e basta, adesso stai. Se lo trovi così, ma stare a girare, a fare, così era la storia della cassetta di scarico del bagno mio, che non si riusciva più a trovarla. Quando l'ho trovata, questo idraulico, non era uguale, però sono riuscito, lo stesso me l'ha messa i buchi con baciavano, e quindi ho detto piazzami quella, me l'ha futtinuta, si è diversa dall'altra. Ma infatti, adesso vediamo, dai. Vedo domani cosa riesco a trovare qua a Sassari, almeno solo al prezzo, capito? Cioè, voglio dire, non è che se costa 150, dico, no, qua una cosa, devi dire, perché questo è originale, 5-3 forte, moderato, nuovo, quindi con kit addirittura di riparazione, cosa vuoi dire? Va bene, dai, aspetta che mi salvo la pagina, sennò dopo non lo trovo più. Vabbè, ma non ti paghi il trasporto, Vitti, solo 30 euro che risparmi. Oddio. No, costa 149,90 più 35 euro di spedizione, però se lo trovo a Sassari, mi dicono 150 euro usato, conviene prenderlo da nuovo, se anche me ne frega. Ah, non usato, già nuovo. Cioè io sto andando sull'usato, perché tanto la macchina c'è che ci vuole. Sì, no, prova a zettare il cambio domani mattina. Sì, da Bruno, io lo conosco. Prova lì che è il numero uno in questo momento. Sì, ma posso far ordinare anche la Walter, quella roba lì già. Se servono lì. Infatti non hai problemi. Prendilo qua a Sassari che risparmio. Sì, ma sto dicendo, adesso vedo un po' se riesco a trovarlo in qualche spazio a carrozza, capito? Se lo paghi 50 euro me lo biglio, mi conto quello, me lo piazzo al momento, lo piazzo subito, capito? 50, 60 euro, 80, quello che è, ma non deve superare le 150 euro. Ascolta, vai al colpo sicuro, se non l'hanno pressata. C'era grigia uguale, precisa identica alla tua, da Marcetto. 10 giorni fa, che ha demolito una macchina mio cognato, l'ho accompagnato io ed era proprio lì nell'ingresso, capito? Se non l'hanno smontata e pressata, ma sicuramente i vetri li tolgono, perché parabrezza, sportelli, è tutta nuova, non gli ho preso anche l'anniversario, forse la fusa, non lo so. Da Marcello prova. Vabbè, diciamo che ho varie strade. adesso si tratta solo che resista il vetro. Anche solo da domani suggerirò come muovermi per poter cercare di fare qualcosa. Perché ne ho provato anche un'altra, lì, come si chiama? Tapone si chiama quello che c'è dietro, sì, tapone. C'è un'altra lì stesso, come la mia, però deve essere parola. Però, vabbè, era per sapere un po' se erano ancora in circolazione questi pezzi qua, questi vetri. Ma poi andare a colpa sicura sia da Nanni, Tavoni, che da Simone di Damascetto, perché le ho viste sia da una parte che dall'altra, ci sono. E se no ti avvicini, da te ricambi e te lo fai ordinare. Ma lo prendi di concorrenza, risparmi e il vetro è uguale, non cambia niente. Vedi un po' tu, dai, già ti sai muovere. Sì, ma è come si dice a Gianni poc'anzi, che gli hanno rotto il vetro a un amico suo e ha pagato 3.000 euro. Ma lasciamo perdere, vai, che non si vuole la macchina. Era un acroba, non era amico mio, era uno che abitava lì vicino. Una croma era, deve essere che gli hanno buttato qualcosa dalla finestra. Boh, io ho preso così, se caggiuto, che cos'è attaccato lo freddo? Se c'ha il non atto termico, quelli ad esempio, quello che avevo io dell'Audi aveva il motore termico, no? Come tutte, e poi c'aveva anche l'antenna nel vetro, quindi quelli costano un sacco di soldi, capito? Però vabbè, che sono 3.000 euro, non so, Tino, vedi un po', già ti sai muovere, vedi un po' cosa salta fuori, Io sono riuscito a saldare, adesso la chiudo, sta radio la devo provare a vedere se è espansa, come dico io, perché prima era 4.30.